Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we... E come avrete intuito, sta per iniziare Spirito di Patata. Something must be done. Say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need other, so we better call the calling of off. Let's call the whole thing off. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might and I go for oysters. I'll order oysters and cancel the oysters. For we need each other, so we better call the calling of off. Let's call the whole thing off. I say father and you say pater. I say mother and you say mater. Pater, mater, uncle, let's call the whole thing off. I like bananas and you like bananas. I say Havana and I get Havana. Bananas, bananas, Havana, Havana. Go your way, I'll go mine. Incredibilmente tutto funziona, microfoni, c'è la musica, il mixer, ci siamo noi, questa è Spirito di Patata e oggi siamo più fritte, scoppiettanti e profumate che mai. Abbiamo... Che ridi? Non te l'aspettavi? No, a voglia. A voglia, ciao! A voglia. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao, ricordiamo le nostre coordinate. Beh, se ci volete venire a trovare, siamo a San Lorenzo, a Roma, via De Volsci 56. Il nostro numero di telefono è 06 49 17 50, ed è quello della radio, non è il nostro telefono personale. Però di personale abbiamo una pagina Facebook che è Spirito di Patata e potete scriverci con in oggetto Spirito di Patata e MFLA @ondarossa.info. Yo. Dopo questo inizio molto molto scoppiettante, ci addentriamo subito su sulle chiacchiere da bar di Spirito di Patata. Beh, te c'è di tutto, sirene e quant'altro. Vai, che abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Beh, come al solito ce la prendiamo con una categoria. Sì, quella categoria poco fantasiosa dei pubblicitari e delle pubblicitarie. Preferita no. Cioè, io penso che da prendere di mira, che guadagnino vagonate di soldi immeritatamente. Io comincerei subito da, da una storia. Una storia che avviene, è avvenuta a La Rinascente. E la spilla del doppio senso. Parto da questa perché su questa ci sono un sacco di cose da dire, così almeno siamo all'inizio della puntata e le posso dire tutte quante. C'è tempo. Cosa è successo alla Rinascente? Le commesse e anche i commessi, ma questa cosa, immaginate quanti commessi, il numero dei commessi ci possa essere all'interno della Rinascente, sono obbligati a portare un badge che dovrebbe in teoria pubblicizzare la carta, la Fidelity Card, con scritto "averle facile, chiedemi come". Allora tu vai dalla questa e gli dici: ti devi mettere questa cosa. Già stai in una situazione di superiorità, supremazia, potere. E più ne mette, tu mi chiedi di fare questa cosa. Sicuramente sarà venuta in mente a un uomo, perché probabilmente non ha la sensazione, la percezione di quello che subisce già dalla mattina alla sera una donna, sia se è vestita in maniera più o meno attraente, sia se non lo è. Semplicemente per il fatto di essere donna sembra che tu sia al banco del macellaio con a pezzi, e quindi sia una merce da esporre e la gente possa dire, fare quello che gli pare, prendere, toccare. Ecco, no, non è così, non siamo merce al mercato. Se io mi metto pure questa spilla addosso, cioè questa apri di cielo le cose, no, che infatti vuoi averle facile, chiedimi come. Immaginati le battute che queste donne hanno subito, queste commesse mentre lavoravano, e quindi devono pure stare zitte, no, in teoria. Invece è successo che qualcuna si è ribellata e si è rifiutata di metterla. Fatto sta che questa cosa ha fatto più o meno scalpore. Da un blog, che è il blog di Jumpy Shark, ci sono un po' di intuizioni e di analisi su questo tipo di slogan: averle facile, chiedimi come. Il pronome sessualizzato. Però parliamo un po' anche di questo pronome sessualizzato. Parliamo. Io mi ricordo le battute in terza elementare. Me la passi? Me la dai? Se ti dico che io di cognome faccio "lo presti", me la presti. Cioè, ogni volta che non si metteva il soggetto, il sesso, tutto quello. Ma cioè, soprattutto non quello di chiunque, sì. Il tuo, no, era quello, era ciò che c'era di sottinteso. Ok, queste sono battute da terza elementare. Pubblicitari, ci vogliamo evolvere? No, ci non vogliamo ce la evolvere? Fanno. Ce n'è una famosissima di pubblicità che era "io ce l'ho profumato", lo ricordi? Sì, che l'alito, no. Che avevi capito? Se ci avessi profumato pure quello, noi saremmo pure più contente. Cioè, questa cosa, che anche là si apre una grandissima parentesi. E a questa me non me ne potrebbe cambiare fregate meno, ma... E va bene quella. Poi vabbè, appunto, poi c'è stata questa della Rinascente, che pare che anche 20 anni dopo non si siano evoluti. E poi vabbè, appunto, questa cosa del pronome sessualizzato, che penso sia stato utilizzato a iosa in tutte le salse. Poi non c'è solamente il pronome sessualizzato, c'è anche "averla è facile". Capito, c'è anche il fatto della facilità, no? Certo. La dà facile. Chiedimi come. Che c'è anche invece come "vuoi dimagrire? Chiedimi come". Insomma, questi qua si sono riciclati tutti gli slogan degli anni 80, poi di quando erano a scuola. Oh raga, sudatevelo sto salario, capito? Sudatevelo. Maledetti pubblicitari, comunque. E questo è niente, perché oggi ne abbiamo una sfilza infinita, perché loro producono a profusione cavolate dalla mattina alla sera. Siete all'ascolto di Spirito di Patata. Io sono tornata, come vedete, ahimè, a fare la spalla. Mi ha anche scalzato dal mixer questa settimana, ma mi ribello. L'hai promesso pubblicamente. L'ho promesso pubblicamente sul social network, quindi non è tanto pubblico. è pubblico fino a lì. Vabbè, ci sentiamo una canzone e poi torniamo in diretta in voce radiofonica. Forse ce la sentiamo, perché vuole stare al mix e poi non gliela fa. Gliela fa. Tutti quanti riconosciuto, oltre ad avervi sturato le orecchie, esatto. Vi ricordo che cos'era la canzone Garbage, I Think I'm Paranoid. Che era il primo o il secondo disco addirittura, forse il primo, quello con le piume tutte fucsia, con scritto Garbage, lei rossa, bellissima. Non lo so, mi faccio troppe canne per ricordarmi pure l'anno. Stiamo fine anni 90. Cioè, non lo sai che io so tutte queste cose. Lo so. Infatti, io ho detto che oggi sono molto anni 90. Brava, pure io sono una cifra. Come siamo in feeling? Siamo proprio in feeling. Siamo entusiaste quando siamo contemporaneamente. E meteoropatiche contemporaneamente e giù di corda contemporaneamente. Pensate, che fortuna! Che fortuna proprio. Va bene, adesso la seconda invettiva contro pubblicitari. Anzi, in questo caso sono addirittura pubblicitarie. Lo sai che sono in questo caso anche sono state delle pubblicitarie le fautrici di questa orribile reclame. Questa è veramente fuori luogo, più che cioè proprio fuori luogo. Sì, insomma, parliamo di una grandissima catena di elettrodomestici tedesca. Diciamo il nome, Miele. Sono tedeschi, sono? I think. Ah, ok. Mi pare di sì. Almeno lo erano, poi non so se tra corporation, comprami di chi sono adesso. E la chiamano anche comunicazione integrata. Sì, cioè, okay, cioè, esatto. Basta, mettiamo un po' di. Mettiamo sostenibile di qua, green di là, integrata di là, e pensiamo che ci possiamo, non so, con tre parole risciacquare l'immagine proprio. L'uniche tre parole. Loro pensavano di fare ironia e pensavano pensano magari anche che la rabbia delle femministe possa portare, e non solo delle femministe, perché qua ci vuole veramente un briciolo di intelligenza per intuire che è veramente fuori luogo questa reclam. Possa alimentare la pubblicità, la gente si arrabbia, perché poi di qualsiasi cosa, no? Basta che se ne parli in pubblicità. Di che cosa stiamo parlando? Miele dice stop alla violenza sulle stoviglie. Dai. Ripigliate. Cioè, ripigliate proprio. Cioè, ma per la serie, ma come diavolo ti permetti e come pensi che si possa fare oggi ironia su una questione che, tra l'altro, poi non so, all'estero, ma lo sappiamo in realtà pure all'estero, è abbastanza grave. Sicuramente qua in Italia i dati sono allarmanti, al martedì li diamo ogni settimana, tra l'altro. Sì, sì, siamo arrivati a domestica. Quindi io mi devi dire come ti viene di fare della facile ironia, in questo senso richiamando una questione molto grave, molto seria, come quella della violenza contro le donne, della violenza domestica contro le donne, che già è mistificata di per sé in questo paese, visto che non se ne parla praticamente quasi mai, se non in termini che non sono, che sono quelli del delitto passionale, di altre stronzate del genere, e le pubblicitarie, perché io l'ho sempre detto, ragazzi, ci vuole più femminismo per tutte, a scuola, nel corso. Dai una lettura di genere al mondo, dalla questa lettura di genere, che funziona meglio, capisci un po' come girano le cose, e forse eviti di cascare in questi facili giochi maschilisti, per cui appunto fa figo giocare su questi temi che sono ovviamente d'attualità, senza capire che lo fai sempre sulla pelle di altre donne, e quando lo fa una donna stessa è veramente una cosa da no comment. Facciamo così perché restiamo sempre delle signore, quindi... Lo diciamo sempre che se non hai un buon prodotto da vendere è inutile che ci metti due tette e due chiappe e poi lo vendi, no? Però qua non si tratta solamente, qua magari non hanno messo il corpo delle donne, ma hanno messo addirittura proprio il delitto che viene fatto contro l'intero genere, che proprio che avvenga qua in Italia, Nicaragua, Russia, India, Brasile, non è che è proprio qualcosa di genere che avviene ovunque. Lo diciamo sempre, la violenza è senza passaporto e viene perpetrato su tutto il viene. Comunque io lancerei da questi microfoni, ragazze, voi che siete così creative e noi che abbiamo così tante idee, fondiamo un'agenzia pubblicitaria e forse proviamo a metterci nel mercato, se non che il mercato è sessista e patriarcale. E forse non ci vuole. E forse non ci vuole, ovviamente. Beh. Però, poi soprattutto è in mano agli uomini, non penso che abbiano voglia di decidere porzioni di potere, quindi le dovremo sgraffignare centimetro per centimetro. Per questo ci piacciono tutti i siti e tutte le donne che lavorano su il sovvertimento delle pubblicità, dell'advertising, e tutte quelle che fanno questo costante lavoro di monitoraggio di quello che viene pubblicizzato costantemente su riviste, televisioni, radio. Ci sono degli spot radiofonici che qualche giorno li porto, cioè sono ancora più allucinanti di questi. Ma ci sta una compagna che ci ha segnalato nella nostra pagina Facebook, sempre a proposito di pubblicità, e poi chiudiamo questo angolo pubblicitario, una anche questa una specie di reclam, sì, una reclam campagna. Comunque guardate come proprio reclam, mia madre diceva reclam, perché negli anni 80 in Italia, negli anni fine anni 70, inizio anni 80 in Italia si usava a dire, al posto di pubblicità, di spot e quant'altro, questo termine francese che era reclam. Se vuoi ti dico anche carosello. Dai, non farti più vecchia di quello che sei, su via. Ma io non sono vecchia, lo dico, sono proprio. Poi, tra l'altro, come abbiamo detto, come stavamo riflettendo qualche giorno a microfoni spenti, la militanza e lei l'ha girata perché, siccome non è lesbica, allora vuole dire la militanza. Io dico le lesbiche, sono più giovani. No, vabbè, che c'entra? Ma anche, no, anche la militanza. La militanza. Il lesbismo e la militanza mantiene giovani. Poi tu che ce l'hai doppia, allora sei una quindicenne, sembra. Ciao, avanzati. Sono giovanissimo. Cioè, sei giovanissima. Insomma, guarda che cosa ci ha lasciato nel nostro muro questa compagna. È un annuncio di come nelle pubblicità viene reclamata, viene pubblicizzata, comunicata il sesso femminile. Proprio il membro femminile, la vagina, la patata, la farfalla, fiore, come la volete chiamare, chiamatela, che deve essere sempre pulita, profumata, rasata e quant'altro. Questa storia del rasato, comunque, raga, finiamola. Primo è rasarsi, poi quando te ricrescono sono dolori tuoi. Vabbè, ma al di là di questo, no, io voglio parlare di questa cosa. Parliamo. Di tutte le pubblicità che ci girano intorno, quindi sono gli assorbenti che ti tengono il profumo, te la tengono tutta profumata. Il chili e tutte le varie cose, pure lì sempre profumata. E poi vuoi fare la spaccata e non ti sporchi. Cioè, tu devi stare sempre a posto là, no? È tutto questo. Stavo facendo il commento prima, ma ci sono delle pubblicità al maschile, cioè per gli uomini, che gli suggeriscono, per esempio, dopo essere andati in bagno a pisciare, che se lo so tenuto in mano, l'hanno sgrullato bene, no, andasse a lavare le mani. No, che a questo 5:30 non fa niente, non fa niente, perché noi parliamo, che c'entra? Parliamo di assorbenti, parliamo di verticali, tenerla profumata, rasata, ma io dico, ma qualcosa che è dedicata alla pulizia dell'intimo maschile, non c'è, no, perché loro devono da puzzare. O perché loro sono puliti, le fanno dei default queste cose? Ma de che? Ma de che proprio? Oh. Ma de che? E allora, cioè, perché ce l'avete con noi? Perché ce l'avete con noi? Ma pensate al vostro de profumo, de puzza. Ma pensate a, veramente, a... Che non si possa... Per esempio, un prodotto che potrebbero reclamare, no? Visto che siete tanto fissati per questa pulizia. Una cosa che pulisce il cesso dopo che avete fatto pipì. Per gli uomini, za, hai fatto, hai schizzato da ovunque, vai, de olio, de gomito e dagli una pulitina, no? Sì. Ce l'avete con noi, con la nostra patata, e basta, su. Emancipatevi, no, emancipatevi da me, lasciateci in pace, fondamentalmente. Presenta la canzone, anni 90, la presento io, Erase and Rewind. Erase and... Ah, l'inglese, questo sconosciuto. Dei Cardigans. Yeah. Siamo tornate in onda, siete all'ascolto di Spirito di Patata, sono le 17.40, sarete in nostra compagnia, ai noi, ai voi, fino alle 18.15, volenti o nolenti, ma parliamo di cose serie. Dopo esserci così fatte questo excursus, che non è finito forse, in mezzo alle orripilanti campagne pubblicitarie che quotidianamente investono le nostre giornate, è arrivato il momento della serietà, di notizie che ti cambiano la giornata, di notizie che aspettavi da una vita. Vai, piantala, quindi devi andare a parare. Allora, pare che arriveranno le lesbiche. A parte su Marte. No, pare che le lesbiche arriverebbero sicuramente su Marte, se non fosse che so De Coccio e di Costanza, se glielo dovessero chiedere lo farebbe. Ma insomma, no, le lesbiche arriveranno a Beautiful. Sì, dai, cioè, è un momento che io aspetto da quando lo guardavo e stavo al liceo, forse. Sì, stavo al liceo, tornavo da scuola, guardavo mentre pranzavo, guardavo Beautiful. E confesso, senza nessun problema, di riguardarlo ogni tanto. Tanto non perdi mai il filo a Beautiful. Succede una cosa in media ogni 1200 puntate, quindi fondamentalmente non ti perdi mai il filo. Lo puoi rivedere a sprazzi e bocconi. Poi se qualcuno si è perso qualcosa, c'è un fantastico riassunto su, che gira su YouTube, 20 anni in 6 minuti, no? L'abbiamo anche messo, l'abbiamo messo, perché diceva quante volte era morta Taylor e quante volte era morta Brooke, quanti li sposa Lizzy. Guarda che bella parola, veramente, però l'arcaica, gli sposalizi. Sì, sarà che sei vestita un po' così, un po' come direbbe la nostra amica Giulia Lania, sono molto ottocentesca oggi. Esatto, esattamente. Giulia, tra l'altro, ti aspettiamo a questi microfoni. Ma sì, c'è anche, mi ha lasciato un messaggio della nostra bacheca e diceva: quando è che recuperiamo la buca che vi ho dato? Noi ti aspettiamo, siamo qua. E tra l'altro io la voglio intervistare a Spirito di Patata e devo fare un'intervista proprio scabrosissima proprio con lei, devo parlare di cose scabrosissime. Io sto ricercando questa notizia, l'abbiamo presa da un sito che probabilmente nello spirito in qualche modo c'è molto vicino, che si chiama letspop.it, appunto. Nel frattempo io ne ho trovato un altro, perché le lesbiche sono vabbè, a parte ovunque. Poi ci sono anche, nel frattempo mi sono anche documentata, sapete che ho una passione per la cultura popolare brasiliana e mi sono fatta un excursus delle lesbiche che appaiono nelle novelas brasiliane, nelle telenovelas, le soap opera, che loro se le autoproducono, se le vedono e se le smazzano per circa un anno e mezzo. Quella più importante è quella delle 8 di sera. E ce ne fu una che tra l'altro mi sono vista tutta, perché abitavo in quel di Rio, che si chiama La Signora del Destino, A Signora do Destino, che è andata in onda tra il 2004 e il 2005, e c'era la coppia lesbica, c'era una coppia lesbica che tra l'altro si è fatta stravoler bene dal pubblico brasiliano, che comunque era un pubblico medio-basso, molto molto basso a vederlo. E alla fine della novela, visto che comunque succedono un sacco di cose brutte, ma alla fine qualche happy ending c'è, loro si sposano e adottano una bambina. Perché proprio addirittura. Poi vabbè, appunto, andando, ci sta anche nell'Lip Service 2, ci sono noi Lip Service 2 ancora non ci siamo arrivate. No, tanto qua non hanno mandato manco in onda Lip Service. Ah, forse Lip Service 1 in qualche canale del... Vabbè, però c'è gente che se li vede, cioè, si li scarica, se li vede tutti quanti, c'è, no? C'è gente. Comunque, no, ragazzi, non divaghiamo sul tema. La notizia che è a Beautiful soap opera di 25 anni di vita, ambientata veramente dentro due case, però dicono in un po' in realtà. In un ufficio. Tra un ufficio e la casa dei Forrester, per chi sa di che stiamo parlando. Insomma, il mondo della moda rappresentato da Beautiful finora sarà stato anche incredibilmente privo di personaggi gay, ma alla soglia dei 25 anni di vita le cose stanno per cambiare. Come annunciato dall'emittente, infatti, il personaggio di Caroline Spencer, fidanzata di Tizio, De Gaio e De Sempronio, ha due mamme. Che svoltone, bro. La prima è Karen Spencer e la seconda è tale Danielle, che entrerà in scena verso metà maggio in America. Non agitatevi a picciare il televisore in Italia, perché ora che arriva qua sarà tipo ottobre. L'attrice che sarà interpretata, vabbè, che interpreterà Danielle sarà Crystal Chappell, veterana delle soap opera, Sentieri, Santa Barbara, I giorni della nostra vita, Una vita da vivere. Ecco, vedi, alla soprattutto ha già fatto la lesbica in altre cose, in altre soap. Pioniera dei ruoli lesbici in questi contesti. Soprattutto lei ha uno stipendio fisso perché fare le soap opera, come ci insegna Boris, è ovviamente un lavoro di quelli da ufficio. Io le lesbiche beautiful, dice l'autrice dell'articolo che si trova su letspop.it, le stavo proprio aspettando, anche io effettivamente. Sarò che ho iniziato una passione per le soap opera e i loro tempi narrativi diluiti, sarà che mia madre mi ha trasmesso un'ingiustificata e tuttavia notevole simpatia per Brooke, io tra l'altro invece la odio, ma ero proprio qui ad aspettare la anche perché raga, erano rimaste solo le lesbiche, diciamocelo tutte, perché tanto in quelle due famiglie, se qualcuno ha visto il riassunto, tutti sono andati con tutti, hanno fatto più test di paternità dentro beautiful in tutta l'America in questi ultimi 25 anni, quindi giustamente sono finiti gli uomini, sono finite e quindi ovviamente le lesbiche. Noi siamo felicissimi, aspettiamo con ansia vedere come reagisce appunto la mamma, la nonna, la casalinga di Voghera, come si diceva una volta. In questo caso è la casalinga di Springfield. Di Springfield, esatto, perché i tempi sono cambiati e quindi ci faremo delle grosse risate. Ricordiamo che va in onda in quella che il Moige terribilmente chiama fascia protetta, quindi alle 2 del pomeriggio. Le lesbiche beautiful, guarda. Censureranno il bacio? Chi lo sa? Ma noi vigileremo su questo e se lo censurano lo manderemo in onda noi, non so come, visto che siamo una radio, però ci metteremo qualcosa, magari lo pubblicheremo. Per farlo vedere. Allora, adesso facciamo, sentiamo una canzone. Guarda, che... c'è gente sconvoltissima. Non c'è digitale, ah, lo volevi sapere? No, addirittura delle anticipazioni vogliono qua. Vuole comprarsi il digitale solo per vedersi il bacio lesbico di Beautiful. Ci ascoltiamo Lauryn Hill, Doo Wop, e c'è un sacco di dediche da fare. La dedico a Daniele, a Daniela, a Francesco e a Manuela che ci stanno ascoltando. Lauryn Hill. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like yo. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yeah. Feel real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Win-win, come again. Rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they you fan, popping yeah. Like you got yeah. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Nel frattempo, a microfoni spenti, stavamo facendo un riassunto di 20 anni di Beautiful, in cui è successo di tutto: gente che prende le bacche, tromba al buio e non si rende conto che è il marito, pure se c'è stato tipo 10 anni. Ti dice? Non avevo riconosciuto, era buio. Non l'avevo riconosciuto, era buio. Cioè, ci sei sposato da 4000 puntate, divorziata 30 volte, risposata 40 e ancora non lo riconosci. Ma che problemi c'hai? Altro che F4, comunque, li puoi riconoscere gli autori. Ma non è una Beautiful, non è una soap opera, raga, è fantascienza, è ai limiti del possibile, del narrabile. Gente che resuscita, Bridget è resuscitata almeno 2 volte. Taylor pure, cioè, quindi... Ma comunque non è solamente Beautiful, perché voi invece vengo da una famiglia nel momento di outing, io vengo da una famiglia dove non si vedeva Beautiful ma si vedeva Sentieri. Ah, vabbè. This is the time. Ecco, in Sentieri vi dico semplicemente che Riva è morta. L'hanno clonata e gli hanno dato una pasticca per farla crescere di un anno al giorno. È morta, l'hanno clonata e gli hanno dato una pasticca per farla crescere di un anno al giorno. Cioè, ogni giorno gli davano una pasticca perché doveva tornare a 50 anni. Non è che se ti clonano, hop, subito torni la Riva. Ed era il periodo dell'esperimento delle pecore Dolly. Quindi probabilmente si sono ispirati a questa cosa. Questa sì che però è fantasia, vedi? Come possono i pubblicitari. Comunque. E noi abbiamo un sito che ha da cui saccheggiare un sacco di cose, e stiamo parlando di Let's Pop, che è un sito di informazione e cultura lesbica, bisex e queer, cultura pop in salsa lesbica. È molto carino, probabilmente chiederemo anche uno streaming quando c'è spirito di patata, perché dicono le stesse cose che diciamo noi e con la stessa simpatia. Simpatia tra di noi. E ci sta il manuale del perfetto rimorchio. Il manuale del perfetto rimorchio per le lesbiche che hanno rinunciato al camion. Vabbè, giustamente. E ci sta, la puntata numero 1, che è per le lesbiche che hanno rinunciato al camion. La puntata numero 2 è del perfetto rimorchio. Poi ci sta l'arte del rimorchio. Ad ognuno il suo, dal rimorchio usa e getta alla sostituzione di Cupido. Poi puntata numero 5, identificare l'obiettivo. Puntata numero 6, la coda di pavone, farsi riconoscere. Sì, perché poi in questo blog ci sta un'ampia sezione per lesbiche che si innamorano sempre di etero e un'altra ampia sezione di è primavera, facciamo un po' di coming out. Ecco, che quello non guasterebbe mai. E sì, comunque un sito molto carino, sicuramente ha delle cose divertenti da raccontare. E mentre qui abbiamo chi è entrato in fissa con Beautiful, sta cercando di capire chi saranno, cosa succederà a questi due personaggi, ma ve lo raccontiamo, no? Dai, andiamo avanti un po' con un po' di musica, così noi smettiamo di continuiamo a parlare di questo. Così noi a microfoni spenti continuiamo a raccontarci questi 25 anni di soap opera e ci ascoltiamo Gamin Impertinent. Me la metti? Che cos'è? Sì, dici che cos'è, dici cioè, che cos'è. Questa è la versione francese di una canzone di Carmen del 2001 che era Bambina Impertinente. Siccome quel disco uscì anche in Francia per svariati motivi, ecco, l'ha trovato Beautiful. Dopo 25 anni arriva la prima storia lesbo. Niente, siamo a rota. E comunque sì, era stato di necessità, era il 2001, qualche mese dopo lei fece un tour in Francia, cantò una canzone di un famoso cantautore francese, Je suis venu te dire que je m'en vais, e poi incise il disco in francese ricantando alcune sue canzoni, tra cui Bambina Impertinente, che diventa Gamin Impertinente. È una chicca, va, ve la regaliamo perché siete voi e vi amiamo tanto. Je suis Catherine Deneuve. Yes! Brigitte Bardot, l'ho messo tutto. paraît train de chante. Au fond, tu as compris que je suis bigote. La bonne sera paix, la petite madone. Abbiamo scoperto chi è questa che sarà la lesbica del più, no? No, la figlia è la no, no. Dillo. È la figlia della sorella segreta mora di Caroline Spencer. È la prima moglie ufficiale di Ridge Forrester. Sì. Passo. Quella che morì a puntata numero 100 forse. Sa tutto. Continuiamo, proseguiamo la selezione musicale e poi torniamo ai microfoni con Spirito di Patata. 87.9 Radio Onda Rossa. Naif, no. Di oggi per l'eternità di amarti cuore contro cuore. Allora io ti direi che non ho scelto io di amarti, tanto meno sopportarti alla domanda di sposarti. Io ti direi giro, mi rigiro un letto piccolo, diviso due. E poi spengo la luce quando inizio le fatiche. Sulla lavatrice dice baci, metti lasso tu. Lui ha il possesso del divano e della TV. Sei di fronte a Dio, giurassi per l'eternità di amarti cuore contro cuore. Allora io ti direi che non ho scelto io di amarti. Direi di no, di no, io ti direi di no, di no. eccoci, siamo di nuovo in onda, siete all'ascolto di Spirito di Patata, sono le 18.02, in compagnia nostra fino alle 18.15, dopo inizierà Atti e Misfatti, come di consueto nel palinsesto del martedì autogestito femministe e lesbiche. Eh sì, questa è l'ultima parte, la parte anche dei saluti e la parte degli auguri. Facciamo tantissimi auguri di buon compleanno a Daria, una redattrice del martedì autogestito da femministe e lesbiche, che ultimamente passa poco qui nei microfoni della radio, ma comunque è sempre con noi, ci sta tanto del suo lavoro, pensieri e quant'altro dietro a tutto quello che diciamo durante tutta la giornata del martedì, che va dalle 17 alle 23. E va bene, quindi un tanti auguri a te, dopo ti chiameremo, ma anche un tanti auguri dalle patate spiritose. E noi abbiamo un'ultima parte, che cosa volevi dire? Ah sì, volevi presentare, quindi anche pubblicizzare un pochino una iniziativa di XX Donna, rivista di varie, sì, donnità. È vero, loro stanno, innanzitutto stanno facendo una campagna di autofinanziamento, perché come sapete noi, vabbè, abbiamo ospitato diverse volte i loro interventi, è una rivista che ci piace molto, come con il taglio che ha, quello che dice, come lo dice. XXD, tra l'altro, è uscito il numero nuovo, potete scaricarlo in PDF, e stamparlo e poi lasciarlo dalle parrucchiere, esatto, o dai dentisti un po' in giro. Sì, perché XXD è una rivista di varie donnità che si scarica, lo scaricate se avete la stampante a colori, lo scaricate a colori, se no lo scaricate in bianco e nero, ve lo leggete ovunque, è gratuito, però ovviamente per fare queste cose, per mandare avanti questo progetto, ci vogliono sempre un po' di soldi per poterlo mantenere e sostenere, quindi stanno facendo questa campagna di autofinanziamento. Ci sono delle riviste, sì, delle riviste, delle rubriche fisse all'interno della rivista di varie donità che parlano di post porno, femminismo. Infatti, tra l'altro il pezzo sullo squirting è molto, molto carino. Io ho letto un po' la rivista, che l'ho scaricata già da qualche giorno, e poi c'è la rubrica di una nostra di una redattrice dell'MFLA, lo diciamo con un po' di orgoglio, che è Donna Sonica. C'è la rubrica d'arte di Alessia Muroni, ci sono delle cose molto interessanti. Sì, sì, Donna Sonica cura un po', diciamo, la parte di tecnologia musicale. Tecnologia musicale, dà un sacco di consigli fighi su dove cercare e trovare della musica bella e gratis, soprattutto, e dà dei consigli anche tecnologici e musicali, quindi sì, una rivista da scaricare, tenere nel computer oppure appunto scambiare tipo figurine. E poi vabbè, offre un immaginario di donna molto differente, nelle copertine c'è sempre una donna, a volte sono anche svestite, ma c'è proprio una percezione, una proposizione di corpi veramente differente, esatto, da quella mainstream. Quindi vi invito ad andare sul sito, che è www.xxdonne.net. E poi hanno fatto, all'interno di questa campagna abbonamenti, ci hanno fatto questo video Essere Femminista, con una serie di interviste prese appunto a qualche serata di autofinanziamento a diverse appunto donne lesbiche che hanno incontrato e che hanno deciso di dire la loro, e il video si trova su YouTube, cercatelo, è molto molto molto carino. E poi un'altra cosa, sempre per esempio tornando alla questione pubblicità, perché poi c'è stato un momento, probabilmente vista l'ondata femminista di quel periodo, in cui la pubblicità tendenzialmente provava a non essere sessista, e cioè mi è stupito tantissimo, perché noi ne abbiamo parlato tanto, cioè abbiamo fatto pure una serie di trasmissioni che potete recuperare sul nostro blog mfla.noblogs.org, su media, bambini, pubblicità, giochi e quant'altro, giochi maschili, giochi femminili, l'avevamo fatte con Elisa Giomi e Daniela Pitti, che sono state nostri ospiti e che facevano appunto questo, che hanno fatto questo lavoro di ricerca su questo tema. C'è un'immagine che noi abbiamo messo sulla nostra pagina di Faccia Libero di Spirito di Patata, che è del 1981, È una bambina vestita con i jeans, la camicetta è rossa con le trecce, che tiene in mano una costruzione fantastica e fantasiosa fatta con i Lego. Pubblicità che credo veramente era nell'81, adesso è impensabile. Tutte le pubblicità che si vedono di bambine e bimbi, oltretutto sono con i giochi a tema di genere, a te ti regalo la cucina, il mocio e quant'altro. C'è da dire, c'è da dire un'altra cosa, anzi, che si è regrediti, che pur esatto. pur di vendere la Lego ha fatto una linea rosa per le bimbe, che è caratterizzata dai pezzi dei Lego addirittura più grandi, come per dire, te sei bambina, forse ti serve anche l'aiutino, ti serve il pezzo più grande, e ovviamente deve essere glitterato e rosa, se no pare che non ti piaccia. Invece mi dispiace, non era così. E su esatto, ci piacerebbe ricordare appunto ai pubblicitari della Lego stessi che loro fecero questa pubblicità nell'81, What is this? It's beautiful, con una fantastica bimba con i pantaloni di jeans tutti molto hip hop, le scarpe da tennis, una magliettina, tutta felice e contenta con la sua costruzione fantastica e fantasiosa e bella di Lego. E c'è sempre il motivo è che c'è sempre bisogno di femminismo, perché appunto se pensiamo che era l'81, quindi ancora la lunga onda di tutto il movimento femminista degli anni 70 probabilmente si faceva sentire tanto, e evidentemente qualcosa era percepita in maniera diversa, tanto che si chiamava Universal Building Set, pensa, cioè questo gioco appunto è l'unisex, universale. Però per spezzare una lancia ai nostri tempi, no? Cioè non è ovunque così. Ho visto una pubblicità di giochi attuale, contemporanea, dei giochi però in Svezia, in cui viene pubblicizzato un trattore e sopra ci sta una bambina vestita molto sportiva ed è lei che sta sul trattore. Yes. Trattore gioco, ovviamente. Perché noi non siamo qui solo per appunto distruggere, ci piace appunto anche citare degli esempi interessanti e positivi, perché appunto si può fare altro. Si può, invece di semplicemente descrivere, poi dopo faccio una ricerca, vedo un po' dove ho trovato queste cose e queste immagini le carichiamo anche nella nostra pagina Facebook Spirito di Patata. Cioè potete diventare amiche, tra tutto non ve l'abbiamo detto, ma potete, noi vi accettiamo perché siamo Non si diventa amici di Spirito, si diventa fan, seguaci. È vero, perché si rupis. Va bene. Aspetta, no, non possiamo chiudere. Non fare così. Sono le 10:10, io devo fare il mio appello. L'ho fatto pure che tu non c'eri la settimana scorsa, due settimane fa. E manda la tua speaker preferita al concerto di Patti Smith. Io ve lo ricordo, se volete, cioè, sta a luglio Patti Smith all'Auditorium. Io sto senza una lira, pure voi, ma fate una colletta perché mi volete bene, mandatemi al concerto. No, ma sai che potresti fare invece di fare la micragnosa? E potresti. Ma io ce le ho le fan, scusa, non essere invidiosa adesso, non ho capito. Va bene, allora niente, non dai, propongo. Dimmi. Potessi, che ne so, scavalcare i cancelli, fare queste cose che si facevano anticamente. Io sono anni 90, ragazzi, sono proprio anni 90. Santo Gold, Say Ha Ha, No Doubt, It's My Life. No, pure c'è una canzone, me la devi mettere. E poi ti metto anche la tua, che cos'è? Dai, che la metti È Centro degli Scisma, anche questo, pieni anni 90, uno dei gruppi più interessanti della musica italiana, infatti si sciolse dopo due album. Sono dei bei momenti. Ma e quindi dopo questa parentesi musicale che vi offre Spirito di Patata, Atti e Misfatti, e tra due settimane con la Vale. No, noi andiamo in onda, ho scoperto, caramba che sorpresa, la settimana prossima. Ma dai, wow, caramba che sorpresa, non lo sapevo pure nemmeno io. E allora ci vediamo tra una settimana. Yo.